Il punto di Stefano Folli. Nella conversazione con il direttore di Libero, non smentita dalla sostanza, Berlusconi fa capire come intende comportarsi dopo l'eventuale conferma della condanna con tanto di interdizione dei pubblici uffici. Né fuga all'estero, né affidamento ai servizi sociali, il suo orgoglio glielo vieta. Escluso il carcere per motivi di età, restano gli arresti domiciliari. Berlusconi diventerà un'icona per i suoi seguaci, un personaggio formalmente fuori dalla politica, ma in pratica presente ogni giorno con i suoi appelli quasi messianici, e nel frattempo il PDL si scomporrà fra un nucleo di intransigenti, Forza Italia, e un gruppone moderato che cercherà di restare ancorato all'area del governo. Già, il governo. Il contraccolpo della condanna di Berlusconi sarebbe formidabile e il PD non potrà continuare a essere alleato di un condannato, i suoi militanti non lo permetterebbero. Insomma, entro questa settimana quello che non è accaduto in 20 anni potrebbe accadere in un giorno.